Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Tra qualche giorno il vostro cervello ricomincerà a funzionare. Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Tra qualche giorno il vostro cervello ricomincerà a funzionare. Thank you.

Thank you.